Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti all'ascolto della Parola di Dio. I temi che abbiamo trattato fino ad ora in merito alla persona di Gesù Cristo sono stati tutti importanti, ma l'argomento che tratterò in quattro trasmissioni, e cioè Gesù è il Signore, costituisce certamente il punto centrale delle nostre riflessioni. Perdere queste quattro trasmissioni significa mancare l'occasione di conoscere meglio Gesù Cristo, quale Egli è. Da quando i primi cristiani hanno creduto in Cristo, sono passati 2000 anni. Nel corso dei secoli, i seguaci di Gesù si sono attribuiti, o sono stati contraddistinti, secondo svariate denominazioni. Cristiani, ortodossi, protestanti, cristiani evangelici, pentecostali, battisti, valdesi e così via. Ma chiediamoci, come professavano i primi seguaci di Cristo la fede nel loro Salvatore, dato che non vi erano tutte queste denominazioni? Che cosa affermavano i primi cristiani testimoniando della loro fede in Gesù? Tutti gli studiosi sono d'accordo nel riconoscere che la professione di fede dei primi cristiani era «Gesù Cristo è il Signore». Ascoltiamo in proposito la lettura di un noto brano dell'Apostolo Paolo. «Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini». E, trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Dunque, ogni credente deve vivere come Gesù visse e deve confessarlo come Signore. Che cosa volevano intendere, quindi, i primi cristiani, attribuendo Gesù il titolo di Signore? Era un nome onorifico, come quando noi chiamiamo una persona il Signor Rossi. Che cosa vogliamo intendere noi oggi quando affermiamo che Gesù è il Signore? Non si può rispondere a queste domande senza fare un breve ripasso di ciò che abbiamo detto nelle trasmissioni precedenti. La Scrittura attribuisce alla divinità di Israele dei cristiani tre nomi: Adonai, Elohim e Yahweh. Questi tre nomi non sono sinonimi per indicare la stessa personalità divina. Perciò la parola di Dio usa una pluralità di termini per indicare lo stesso ed unico Dio. Mentre il termine Elohim e il termine Adonai sono dei nomi generici, il tetagramma, letto da noi come Yahweh, è il nome proprio della divinità degli ebrei e dei cristiani. Gli israeliti, prima della diaspora, credevano in una divinità espressa al plurale e che l'espressione di questa pluralità fosse in Yahweh. Abbiamo considerato che la divinità di Israele ha caratteristiche antropomorfiche e antropopatiche, che ha un corpo e che si è rivelato nell'angelo dell'Eterno. Giovanni il Battista e gli Apostoli hanno identificato in Gesù la divinità di Israele, mentre Gesù Cristo ha affermato di essere Yahweh. Ora diamo una risposta agli interrogativi che ci siamo posti all'inizio delle nostre trasmissioni, e cioè, che cosa volevano intendere i primi cristiani quando attribuivano a Gesù il titolo di Signore? Per comprendere la risposta, dobbiamo ricordare che l'Antico Testamento è stato scritto quasi tutto in ebraico, il Nuovo Testamento in greco. Quindi, le Bibbie che possediamo nella nostra lingua, in italiano, sono una traduzione delle lingue originali e quindi, come vedremo, possibili anche di errore. Oggi noi possediamo gli scritti originariamente ebraici nella loro traduzione greca, detta dei 70, perché un certo Tolomeo Filadelfo, vissuto nel III secolo avanti Cristo, incaricò 72 eruditi ebrei di tradurre tutto l'Antico Testamento in greco volgare. Per questo la traduzione venne chiamata la 70 e scritta con i numeri romani. Il Pentateuco fu terminato al tempo di Tolomeo, mentre il resto dell'Antico Testamento finì di essere tradotto verso il 150 avanti Cristo. La versione dei 70 fu adottata come testo dell'Antico Testamento sia da Gesù che dai primi cristiani. Poiché l'Antico Testamento è stato tradotto in greco, la domanda più ovvia è: se i tre nomi di Dio erano stati espressi nella lingua ebraica, come li hanno tradotti in greco i 70 eruditi ebrei? Dal momento che anche il Nuovo Testamento è stato scritto in greco e che in esso non troviamo e non possiamo trovare nessuna traccia del nome di Yahweh, perché esso è un termine ebraico, atteso inoltre che questo nome è impronunciabile e non traducibile, come hanno tradotto in greco i primi cristiani ebrei il nome proprio della divinità di Israele? Dalla risposta che daremo a questa domanda dipende gran parte della nostra comprensione della scrittura. Forse qualcuno che mi ha seguito fin dalle prime trasmissioni avrà ritenuto un po' esagerato dare molta importanza ai nomi di Dio, ma ora tale insistenza ha la sua ragion d'essere. Non è possibile comprendere la confessione dei primi cristiani senza tener conto dei nomi della divinità di Israele. Poiché i tre nomi di Dio sono in ebraico, e cioè Yahweh, Elohim, Adonai, in greco questi tre nomi sono stati tradotti in questo modo. Il tetragramma, cioè Yahweh, il nome proprio della persona della divinità di Israele, è stato tradotto in greco con Kyrios, l'equivalente in italiano Signore. Il nome Elohim, che è un nome generico, è stato tradotto in greco con Theos, l'equivalente in italiano è Dio. Il nome Adonai, che è un nome comune, è stato tradotto con Despota, l'equivalente in italiano è Padrone o anche Signore. Troviamo queste tre espressioni in un solo versetto della lettera di Giuda. Ascoltiamo. Si sono infatti infiltrati tra di voi certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna. Empi che mutano la grazia del nostro Dio, Theos, in immoralità e negano l'unico padrone, Despota, Dio e il Signore, Kyrios, nostro Gesù Cristo. Queste specificazioni dei nomi hanno lo scopo di dimostrare quanto sia lampante la divinità di Gesù, perché se i nomi della divinità di Israele sono attribuiti a Cristo, allora la questione della divinità di Gesù Cristo si ribalta. Il problema è trovare nelle scritture affermazioni che neghino la sua divinità. In merito a questa problematica, secondo alcuni studiosi, l'attestazione più categorica fatta da Gesù circa la sua divinità, confermata dalla scrittura, si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 22. Vogliamo ascoltarlo. Ora, essendo i farisei riuniti, Gesù chiese loro: «Che ve ne pare del Cristo? Di chi è figlio?» Essi gli dissero: «Di Davide». Egli disse loro: «Come mai dunque Davide per lo Spirito lo chiama Signore, dicendo: Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio?» Ma nessuno era in grado di rispondergli, e da quel giorno nessuno osò più interrogarlo. Il passo dell'Antico Testamento, richiamato da Gesù, è il Salmo 110, che cita così: «L'Eterno dice al mio Signore: siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi». Come tutti i suoi contemporanei, Gesù cita la versione della 70, ove il greco recita: «Il Signore ha detto al mio Signore». Traduzione però che non rende fedelmente il testo originale in ebraico. Questo, per chi legge la Bibbia, ostacola una giusta comprensione. In ebraico, invece, abbiamo «oracolo di Yahweh al mio Adon». Gesù mette in evidenza, con questa citazione e affermazione, la discendenza davidica del Messia come un fatto incontestabile. Dichiara che il Salmo è stato scritto da Davide, che colui a cui Yahweh si rivolge, e che è figlio di Davide, ha l'appellativo di Adon, cioè Signore di Davide. E tutto questo per lo Spirito Santo. Come poteva Davide chiamare Signore suo figlio? La precisazione di Gesù aveva lo scopo non di litigare, ma di mettere in evidenza la sua divinità e della sua presenza nella Torah, cosa che molti studiosi non hanno compreso. Come la scrittura si interpreta con la scrittura, così il senso dell'affermazione di Gesù non possono essere comprese se non alla luce delle sue parole. Cristo stesso, dunque, è la password di se stesso. Per capire l'espressione «oracolo di Yahweh al mio Adon», espressione alquanto oscura per molti, è necessario sottolineare quattro cose. Un errore di traduzione della 70 rispetto al testo ebraico non pone al posto del nome comune Adonai il corrispondente greco despota. Gli evangelisti hanno traslato la stessa traduzione greca della 70 nel loro testo greco. Seconda cosa, il testo del Salmo, ripreso da Gesù, richiama la cerimonia d'intronizzazione della casa reale. La destra non è uno scranno posto alla destra del re sul quale si insedia il figlio cadetto, bensì è lo stesso trono del padre che, dopo aver accolto in piedi il figlio, gli consegna i segni del potere, lo fa accomodare al proprio posto, facendosi da parte alla sinistra dello scranno. Il cadetto, una volta intronizzato, diventa re a tutti gli effetti e gli astanti gli pongono lo sgabello del padre ai suoi piedi. Terza cosa, poiché l'espressione «oracolo di Yahweh al mio Adon» fa dedurre che Yahweh si riferisca ad un altro, è bene tener presente la peculiarità di Yahweh, già presa in esame nelle precedenti trasmissioni, di esprimersi in terza persona. In effetti, Yahweh attesta che, nella sua umanità, egli sta per essere intronizzato. Ed infine, consideriamo che la vera intronizzazione di Yahweh si è totalmente compiuta nell'ascensione della natura umana del Cristo, l'unico vero mediatore, tra l'altro, tra l'uomo e Dio, il quale riceve il regno eterno come uomo, perché in quanto Yahweh, figlio di Dio, l'aveva sempre avuto. Quindi, non esiste, come alcuni pensano nell'affermazione «oracolo di Yahweh al mio Adon», una attribuzione del nome Yahweh alla prima persona della Trinità, per cui sarebbe la persona del Padre che si rivolgerebbe al Figlio, ma è Yahweh stesso, quale Cristo eterno, che si riferisce alla sua stessa natura umana. E con questa ultima precisazione terminiamo la trasmissione di oggi, dandovi l'appuntamento per prendere in esame i tre nomi della divinità di Israele attribuiti a Gesù Cristo. Ciao a tutti. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, sono felice anche in questa trasmissione di parlare del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. La mia fede nella sua divinità è sempre più supportata da una rigorosa razionalità che metto al vaglio della vostra attenzione. Dopo questa trasmissione, credo che nessuno possa mettere in dubbio il fatto che Cristo Gesù sia Yahweh, citato più di 6.000 volte nell'Antico Testamento. Non solo. Le riflessioni che espongo hanno il potere di mettere in serie difficoltà i grandi negatori della divinità di Gesù Cristo, e cioè i testimoni di Geova. Lascio a voi, allora, il giudizio. Abbiamo detto nella trasmissione precedente che il nome proprio della divinità di Israele è composto da quattro lettere, chiamato tetragramma, e che noi leggiamo Yahweh. Questo nome è stato tradotto per la prima volta in greco da 70 traduttori eruditi ebrei con il termine Kyrios, che in italiano è l'equivalente Signore. In questa trasmissione prenderemo in considerazione, come esempio, quattro passi biblici per dimostrare che il nome proprio della divinità di Israele è niente meno che Gesù Cristo. Il primo passo che prendiamo in esame è il più conosciuto e sul quale poggia la fede del cristiano, e cioè il passo di Gioele al capitolo 2 e versetto 32. Ascoltiamo. E avverrà che chiunque invocherà il nome di Yahweh sarà salvato. Lo stesso passo lo troviamo citato da Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 10 e versetto 13 e nel libro degli Atti al capitolo 2 e versetto 21. Ecco come viene tradotto. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. È evidente, senza possibilità di contraddizioni, che il tetragramma sia stato tradotto in greco con il termine di Kyrios, cioè Signore. Facciamo ora una breve riflessione in merito a queste due citazioni. I testimoni di Geova sono conosciuti per il loro zelo, perché traducono sempre il nome proprio di Dio, Yahweh, con Geova. In questo modo, essi vogliono far risaltare che Geova sia Dio Padre, mentre Gesù Cristo sarebbe solamente il Figlio, un Dio inferiore. Nelle loro traduzioni troviamo il nome di Geova anche nel Nuovo Testamento, benché sia stato scritto in greco, e questo perché ogni qualvolta riportano una citazione dell'Antico Testamento nella quale si trovi scritto Yahweh, essi lo traducono con Geova, anche se poi non sempre così, e non con Signore o Eterno come rendono le nostre versioni. Da un lato questo è lodevole, così questi due versetti nella loro Bibbia rendono «E chiunque invocherà il nome di Geova sarà salvato». In questo modo, gli appartenenti a quel gruppo religioso desiderano testimoniare che sarà salvato solamente chi invocherà il nome di Geova, cioè, secondo loro, di Dio Padre. Senza rendersene conto, i testimoni di Geova, come si suol dire, si sono tirati la zappa sui piedi. Se andiamo a leggere nel libro degli Atti al capitolo 16 e versetto 31, troviamo scritto che Paolo e Sila dissero al carceriere di Filippi: «Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua». Paolo e Sila dissero che la salvezza si ottiene mediante la fede nel Signore Gesù. Com'è possibile essere salvati allora tramite Gesù Cristo si salva solo Geova? Inoltre, il Nuovo Testamento dichiara senza ombra di dubbio che il Salvatore è Gesù Cristo. Paolo, nelle sue lettere, riconosce Cristo quale nostro Salvatore. La conclusione più ovvia è: o non salva solo Geova, oppure Gesù Cristo è Geova, il Salvatore. Cari ascoltatori, nell'esporre queste mie conclusioni ai testimoni di Geova, pur di non riconoscere che quello che loro chiamano Geova è Gesù Cristo, arrivano alla conclusione che vi sono due salvatori. Questa è una delle più grandi contraddizioni di questa organizzazione, perché è scritto specificatamente nel libro di Isaia che Geova, come loro lo chiamano, non riconosce nessun altro salvatore che se stesso. Perciò l'ipotesi che Gesù sia la divinità dell'Antico Testamento non è più una ipotesi, ma una realtà che deve essere solo accettata. Il secondo passo biblico che prendiamo in esame si trova nel libro del Deuteronomio, al capitolo 6 e versetto 16, in merito al tentare Yahweh. Ecco cosa troviamo scritto. Non tenterete Yahweh, Dio tuo. Questo versetto viene tradotto nel Vangelo di Matteo nel seguente modo. Non tentare il Signore Dio tuo. Anche questa citazione è una prova che Gesù sia Yahweh. I testimoni di Geova traducono il passo di Matteo per essere fedeli all'ebraico: non devi mettere alla prova Geova il tuo Dio. Se consideriamo l'episodio nel quale viene citato il versetto, non vi è dubbio che, in quel momento, il diavolo stesse mettendo alla prova Gesù tentandolo. Citando il passo dell'Antico Testamento, Gesù si sta identificando con Yahweh. Che poi Gesù sia Yahweh è confermato da tanti altri passi. Sempre al momento della tentazione, Gesù rispose al diavolo di adorare solo Yahweh. Quando Gesù nacque, lo adorarono gli angeli e i magi, e divenuto adulto anche i discepoli. Gesù lasciò che gli uomini lo adorassero, perché egli è Yahweh, la divinità dell'Antico Testamento. Diversamente, si sarebbe contraddetto con quanto precedentemente aveva affermato al diavolo. Prendiamo ora in esame un'altra affermazione della parola di Dio. Affermazione che troviamo nel Salmo 32, in riferimento al perdono che concede Yahweh. Ascoltiamo. Beato l'uomo a cui Yahweh non imputa l'iniquità. Questa promessa Paolo la riporta nella sua lettera ai Romani al capitolo 4. Ecco cosa leggiamo. Beato l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato. Senza ombra di dubbio, perdonare i peccati è una prerogativa esclusiva di Yahweh. Eppure Gesù, quando era sulla terra, ha più volte rimesso i peccati, e questo per dimostrare che egli è la divinità di Israele e non di possedere semplicemente una vaga natura divina. Infine, prendiamo in esame il tribunale di Yahweh, di cui parla la parola di Dio. Nella lettera ai Romani, al capitolo 14, leggiamo la seguente promessa rivolta a tutti i credenti. Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Sta infatti scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. L'Apostolo Paolo, nel citare il tribunale di Cristo, si rifà ad un passo di Isaia. Ascoltiamolo. Annunziatelo e presentate le vostre ragioni. Sì, si consiglino pure insieme. Chi ha annunciato questo fin dai tempi antichi e l'ha predetto da lungo tempo? Non sono forse io, Yahweh? Non v'è altro Dio fuori di me, un Dio giusto, un Salvatore. Non c'è nessuno fuori di me. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte estremità della terra, poiché io sono Dio e non c'è alcun altro. Ho giurato per me stesso, dalla mia bocca è uscita una parola di giustizia e non sarà revocata. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua giurerà per me. L'accostamento di Paolo al tribunale è indiscutibile. Yahweh afferma che ogni ginocchio si piegherà davanti a lui. Paolo afferma che il giudice del tribunale è Cristo. Non solo. A volte Paolo traduce il nome proprio di Yahweh direttamente con Cristo. Infatti, mentre nel libro di Isaia troviamo scritto: sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta e la gloria di Yahweh si è elevata su te, L'Apostolo Paolo rende questa promessa nella lettera agli Efesini in questo modo. Perciò la Scrittura dice: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà su di te. Solo chi non vuole vedere non comprende che la divinità di Israele è Cristo. Queste riflessioni, cari ascoltatori, conducono alla seguente conclusione. Quando i primi cristiani attribuivano a Gesù il titolo di Signore, confessavano che Gesù Cristo fosse Yahweh, la divinità di Israele. Così, il credente, confessando che Gesù è il Signore, afferma che egli sia la divinità dell'Antico Testamento. Perciò, quando nel Nuovo Testamento troviamo l'espressione Signore, riferita alla Deità, dobbiamo attribuirla a Gesù Cristo e non alla persona del Padre. Alla luce di queste riflessioni, molti passi della Scrittura acquistano un significato tutto nuovo. Quando leggiamo nella seconda lettera ai Corinzi che quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso, l'Apostolo Paolo considera che l'israelita, leggendo l'Antico Testamento, sia impedito a comprenderlo perché non ha fede in Cristo quale Messia. Il popolo di Dio comprenderà le Scritture solo quando si convertirà al Signore. È evidente che qui Signore si riferisce a Gesù Cristo, perché ancora oggi il popolo di Israele crede in Dio, nell'Elohim, ma non in Yahweh. Quando gli israeliti crederanno che Gesù Cristo sia Yahweh, Israele potrà dirsi convertito, cioè avrà acquisito la giusta fede richiesta in tutte le Scritture. Desidero sottolineare questo aspetto perché amo Gesù Cristo e il popolo di Israele. Confessare che Gesù è Yahweh, la divinità degli ebrei e dei cristiani, significa esporre la più grande affermazione di fede e una delle verità basilari del cristianesimo. Proprio per questo, l'uomo cerca di evitare questa confessione, ammettendo che Gesù sia un grande maestro di morale, un essere divino, un grande profeta, un santo, un perdonatore, un giusto o un capo religioso. Alcuni, specialmente nell'ambito dei giudei, ammettono che Gesù sia il Messia. Tant'è vero che essi si fanno chiamare giudei messianici. In proposito, propongo una riflessione di un ebreo che troviamo nel suo libro Le relazioni interpersonali di Gesù. Ascoltiamo. Per la teologia ebraica, il titolo di Messia non implica la divinità. Perciò, quando Pietro chiama Gesù il Messia, probabilmente non intende dire che egli è il Dio incarnato. Più verosimilmente vuol dire che Gesù è il liberatore tanto atteso, il salvatore di Israele, colui che avrebbe riscattato il suo popolo. Pietro sta riconoscendo in Gesù l'unto di Dio, il figlio del Dio vivente. La teologia cristiana tradizionale dà normalmente per scontato che con i titoli Messia e figlio di Dio Pietro abbia affermato la divinità di Cristo. Ma in un contesto ebraico è più probabile che figlio di Dio fosse il riconoscimento della perfetta umanità di Gesù, della sua assoluta perfezione, simile a quella di Dio. Notiamo che anche nella genealogia di Gesù, anche Adamo è chiamato figlio di Dio. Se il titolo figlio di Dio implicasse la divinità, non avremmo più una Trinità, ma addirittura quattro dei: il Padre, due figli, Adamo e Gesù, e lo Spirito Santo. Notiamo inoltre che anche il popolo di Israele era chiamato ad essere figlio di Dio, cioè rispecchiare la santità e la perfezione di Dio e a rendergli gloria e onore. Questo è ciò che intendevano gli ebrei con il titolo figlio di Dio. È importante sottolineare che la Bibbia afferma in modo inequivocabile la divinità di Cristo, ma non sulla base del titolo figlio di Dio. Dunque, cari ascoltatori, confessare che Gesù sia Yahvé è qualcosa di più che riconoscerlo come Messia. Come Gesù disse: «Vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati». Gesù esige di essere riconosciuto quale divinità dell'Antico Testamento, il Dio che si è mostrato ad Abramo, a Giacobbe, a Mosè, a Isaia, la Deità invisibile che si è fatto visibile in Gesù Cristo. Ogni confessione di fede inferiore non appaga la divinità dei cristiani, nella quale sussistono tre persone. E con questa ultima riflessione terminiamo la nostra trasmissione, dandovi l'appuntamento per la prossima per trattare ancora della divinità di Cristo. Ciao a tutti. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Continuiamo oggi a parlare della divinità di Gesù Cristo. Nella trasmissione precedente abbiamo considerato in modo inequivocabile la divinità di Gesù perché Egli è Yahvé, cioè la divinità che gli ebrei adoravano e servivano prima che Cristo assumesse un corpo. Questo dato di fatto non è stato percepito da tutti i credenti, sia perché non è stato sempre oggetto di studio, sia perché le traduzioni della Bibbia non aiutano a comprendere questa verità. Come si è detto, il nome proprio della divinità di Israele, Yahvé, è stato tradotto dai 70 con Kyrios, che in lingua italiana è tradotto con Signore. Questo è anche il motivo per il quale alcuni traduttori hanno preferito tradurre il tetragramma in italiano con Signore anziché con Eterno. Essi sono rimasti fedeli al greco. Ma una simile traduzione limita la comprensione della parola di Dio. Se si voleva essere fedeli al greco traducendo Signore, quando il testo rendeva Yahvé, bisognava tradurre sempre con padrone il termine Adonai, per differenziarlo dal primo. In tal modo sarebbe stata rispettata la distinzione dei tre nomi della divinità di Israele: Elohim, Yahvé e Adonai. Ecco un esempio di ciò che leggiamo nel libro di Amos al capitolo 3 e versetto 13, per indicare quanto la scrittura diventi incomprensibile se Yahvé è tradotto con Signore. La Nuova Riveduta rende: «Ascoltate questo e testimoniatelo alla casa di Giacobbe, dice Dio, il Signore, Dio degli eserciti». Mentre la Nuova Diodati invece rende: «Ascoltate e attestatelo nella casa di Giacobbe, dice il Signore, l'Eterno, il Dio degli eserciti». Mentre la Nuova Diodati ha distinto i tre nomi di Dio, la Nuova Riveduta, per non ripetere due volte Signore, ha dovuto tradurre Adonai con Dio. Forse il modo più corretto per riportare il nome proprio della divinità di Israele, senza incorrere in alcun equivoco, sarebbe mantenerlo nella versione originale, cioè scriverlo con le quattro consonanti. Così il lettore farebbe subito distinzione tra il nome proprio, il nome comune e quello generico del Dio di Israele. Ma addentriamoci subito sul tema di oggi. Abbiamo preso atto che il nome generico della divinità di Israele, Elohim, sia stato tradotto in greco con Theos, cioè Dio. Anche in italiano il termine Dio è generico, nonostante automaticamente lo si associ alla persona del Padre di Gesù Cristo. Non che questo sia sbagliato, ma non è detto che tutte le volte che troviamo in greco la parola Theos, questo termine si riferisca solo alla persona di Dio Padre. Essendo Dio sia Gesù, sia il Padre, sia lo Spirito Santo, il termine Theos è quindi attribuito a tutte e tre le persone della Trinità. In questa trasmissione prenderemo in esame alcune affermazioni dove compare il termine Theos. A volte il termine Theos è attribuito alla persona di Gesù Cristo per affermare la sua divinità. Ne è una prova ciò che l'Apostolo Giovanni scrive nella sua prima lettera al capitolo 5. Ascoltiamo. Ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo nel vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Questa affermazione sulla divinità di Gesù è inequivocabile. Qualcuno potrebbe dedurre che il vero Dio sia il Padre, ma occorre tener presente che, secondo quanto afferma tutta la Scrittura, la vita eterna è il Figlio e nel Figlio. Perciò, se chi è il vero Dio è anche la vita eterna, chi è il vero Dio non può essere che Gesù Cristo. Fa coro questa verità sempre l'Evangelista Giovanni nel prologo del suo Evangelo. Ascoltiamo. Nel principio era la parola. La parola era verso Dio e Dio era la parola. In questa traduzione letterale dal greco risalta con evidenza la deità di Gesù. Giovanni afferma che la parola, cioè Gesù, era assieme a Dio, cioè con la Trinità, e che Dio era la parola, cioè che Dio era Gesù Cristo. Troviamo ancora il termine Theos, cioè Dio, riferito a Cristo tutte le volte che si cita nel Nuovo Testamento la divinità di Israele. Un esempio lo troviamo nella lettera ai Romani al capitolo 4. Ascoltiamo. Or Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Il passo citato si riferisce al libro della Genesi al capitolo 15. In quel contesto leggiamo che Abramo credette all'Eterno, cioè a Yahweh. Quindi il nome proprio del Dio dell'Antico Testamento, Yahweh, è tradotto in greco sia con Signore che con Dio. Ma il termine Theos nel Nuovo Testamento a volte acquista il significato di Trinità. Si afferma che la parola Trinità non esista nella Bibbia perché è stata coniata nel IV secolo. Ed è vero. Ma i primi cristiani hanno definito le tre persone della Trinità con una parola molto comune, Dio. Prendiamo ad esempio ciò che troviamo scritto nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 8. E infatti, anche se vi sono i cosiddetti dei sia in cielo che in terra, come vi sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre dal quale sono tutte le cose e noi in Lui. E un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose, e noi esistiamo per mezzo di Lui. L'Apostolo Paolo riconosce che in questo mondo vi sono molti dei e molti signori. Come cristiano, però, testimonia che vi sia un solo Dio, che vi è un solo Padre e un solo Signore. Dal momento che il termine Signore non è un aggettivo, ma un nome attribuito a Dio, come può Paolo fare distinzione tra Dio e Signore? Vi è forse un Dio maggiore e poi un Signore inferiore? Alla luce di quanto abbiamo considerato, comprendiamo ciò che Paolo voleva comunicare. Per i cristiani vi è un solo Dio, nel senso che vi è un solo Elohim, una sola Deità, cioè la Trinità. Se l'affermazione vi è un solo Dio fosse presa nel senso comune e attribuita esclusivamente al Padre, bisognerebbe concludere che Gesù non sia Dio e che lo Spirito Santo non sia Dio. Questo contraddirebbe ciò che abbiamo considerato. Stabilito che vi sia una sola Deità o Trinità, Paolo distingue le persone in seno alla divinità. Vi è un solo Padre e un solo Signore, cioè un solo Yahweh, Gesù Cristo. Queste riflessioni chiariscono alcune affermazioni della parola di Dio, interpretate erroneamente. Quando la Scrittura afferma che Dio non si può vedere, dal momento che il Padre è Dio, lo Spirito Santo è Dio, Gesù Cristo è Dio, a quale persona di Dio si riferisce. Normalmente questa affermazione viene attribuita a Dio Padre, ma essa non può che riferirsi alla Trinità. Questa è la logica conclusione delle nostre riflessioni. Se Yahweh, che è Dio, è stato visto e toccato, se Gesù, che è Dio, è stato visto e toccato, se del Padre si può udire la voce e vedere il suo volto, è evidente che l'impossibilità di vedere Dio non può essere riferita né a Yahweh, che è Cristo Gesù, né al Padre, ma alla Trinità. Quando la Scrittura afferma che Dio è Spirito, questa definizione non è riferita al Padre, come se egli fosse incorporeo in contraddizione a Gesù, che è sempre Dio e che è un corpo. Il termine Spirito significa di natura spirituale. Anche il corpo di Gesù risorto è spirituale, come quello del credente che risusciterà. Così, quando leggiamo Dio è Spirito, dobbiamo intendere che tutta la Trinità sia di natura spirituale, ma che però non si può vedere. Rimane un altro significato che il termine Theos assume, e cioè quando esso è attribuito tanto alla Trinità quanto a Gesù. Infatti, nella lettera a Tito, Paolo non fa alcuna distinzione tra la Trinità e Cristo. Ascoltiamo. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità, che è secondo pietà, nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età da Dio che non può mentire e che nei tempi stabiliti ha manifestato la sua parola mediante la predicazione che mi è stata affidata per comando di Dio, nostro Salvatore, a Tito, mio vero figlio nella comune fede. Grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e dal Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore. Nella sua lettera a Tito, Paolo fa riferimento a Dio nostro Salvatore per 3 volte e a Gesù nostro Salvatore 2 volte. Che il Salvatore sia Dio non vi è dubbio, perché nell'opera di salvezza hanno contribuito tanto il Padre che il Figlio e lo Spirito Santo. Ma se il Salvatore lo ha anche Gesù, significa che egli è Dio quanto il Padre. Non stupisce, quindi, ciò che Paolo ha dichiarato davanti agli anziani di Efeso nel libro degli Atti al capitolo 20. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistata col proprio sangue. Non vi è dubbio che chi è morto in croce acquistando con il proprio sangue la Chiesa sia stato Gesù Cristo. Eppure, Paolo in questa circostanza afferma che Theos, cioè Dio, ha acquistato la Chiesa. Se Gesù Cristo non fosse stato Dio, Paolo avrebbe bestemmiato in questa circostanza. Perciò, anche in questo caso, possiamo scorgere nel termine Dio tanto la Trinità quanto il Signore Gesù. Queste valutazioni, cari ascoltatori, ci costringono a fare alcune precisazioni, perché, come abbiamo considerato, il vocabolo Dio è impersonale, vago. Quando sentiamo affermare che un uomo creda in Dio, al massimo comprendiamo che egli non sia ateo, che è un religioso, ma non abbiamo nessuna nozione per identificare questa divinità. Il cristiano, il musulmano, l'ebreo credono in Dio, ma da un esame, anche non approfondito, scopriamo che non si tratti dello stesso Dio, nonostante che molti asseriscono questo. Quindi, affermare di credere in Dio equivale solo fare una vaga professione di fede religiosa. Così vale anche per ciò che concerne il popolo ebraico. Dichiarando che i santi dell'Antico Testamento credessero in Dio, rendiamo una testimonianza impropria, imprecisa. I santi dell'Antico Testamento non credevano in Dio, ma in Yahweh, che Yahweh sia stato il loro Dio, cioè la loro divinità, è fuori discussione, ma dichiarare che gli ebrei credevano in Dio, come noi oggi lo intendiamo, equivarrebbe a spersonalizzare la loro fede. Yahweh è una precisa persona della Trinità, cioè Gesù Cristo. Dio è la Deità, nella quale sussistono tre persone. I santi dell'Antico Testamento non credevano in Dio Padre, perché l'esistenza del Padre è stata rivelata solo con la venuta di Gesù Cristo. Perciò, distinguere le tre persone della Trinità nella loro opera a destra è indispensabile. La predicazione del cristiano non ha tanto lo scopo di infondere nell'ascoltatore la fede in Dio, ma piuttosto in Yahweh, cioè in Gesù Cristo. L'uomo è disposto anche a credere in un Dio che lo ha creato, che lo ama, che si cura di lui, perché nel profondo del suo cuore sa che qualcuno esiste. Ma quando diamo questo qualcuno il volto preciso di Gesù Cristo, quando Gesù chiede all'uomo in modo specifico di perdere la propria vita per amor suo, quando afferma che essere religiosi non basta per accedere a Dio, quando sostiene di essere solo Lui la speranza e la salvezza dell'uomo, allora, davanti ad una divinità specifica, non rimane che una scelta: o con Cristo o contro Cristo. Che Dio voglia, cari ascoltatori, che nessuno di voi sia privo della grazia di Cristo. Amen. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, la parola di Dio afferma che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Forse a noi sfugge il profondo significato di questa espressione, e non per nulla questa confessione di fede si trova nella lettera agli ebrei. Se teniamo presente il contesto culturale e storico, questa professione di fede non ha paragoni. Quando la divinità degli ebrei, cioè Yahweh, si è rivelato per la prima volta con il suo nome a Mosè e disse «Io sono colui che sono», gli studiosi affermano che il nome Yahweh viene dal verbo essere e include i tre tempi di tale verbo, cioè il passato, il presente e il futuro. In ebraico, la lingua dell'Antico Testamento, ci sono due tempi verbali, il perfetto che indica un'azione compiuta e l'imperfetto che indica un'azione incompiuta. Pertanto questo nome significa colui che era, che è e che sarà. In altre parole, eterno. Perciò, con tale espressione, l'autore della lettera agli ebrei ha testimoniato che Gesù Cristo è stato, è e sarà la divinità degli ebrei e dei cristiani. Credo che molto difficilmente si possa arrivare a queste conclusioni se non si conoscono i nomi della divinità di Israele. Abbiamo detto che oggi noi possediamo questi scritti originariamente ebraici nella loro traduzione greca e per comprendere il valore della traduzione dell'Antico Testamento in greco dobbiamo fare un passo a ritroso nella storia. Tolomeo Filadelfo, vissuto nel III secolo, incaricò 70 eruditi ebrei di tradurre tutto l'Antico Testamento in greco volgare. Questa traduzione venne chiamata la 70. Questa versione fu adottata come testo dell'Antico Testamento da Gesù e dai primi cristiani. Una prova che sia Gesù, che sia i primi cristiani adottassero la 70 come testo della parola di Dio, ci viene dalla traduzione del versetto 7 del capitolo 4 di Isaia, riportato da Matteo al capitolo 1 e versetto 23, in riferimento a Maria, la madre di Gesù. Nell'ebraico, in Isaia, leggiamo: «Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele». Mentre nelle nostre versioni dell'Evangelo di Matteo noi troviamo scritto: «La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. La differenza è evidente. In ebraico abbiamo una giovane che partorirà, mentre nelle nostre versioni abbiamo una vergine. Come mai questa apparente discordanza? Perché le citazioni dell'Antico Testamento, riportate nel Nuovo Testamento, sono prese appunto dalla versione Settuaginta, che è la più antica traduzione del testo ebraico in lingua greca. Mentre nel testo ebraico abbiamo Alma, cioè giovane, nella traduzione greca abbiamo Parthenos, cioè vergine. Questo dimostra che i primi cristiani adottassero come parola di Dio anche la versione dei 70. Entriamo ora in merito al nostro tema. Abbiamo considerato nelle trasmissioni precedenti che i tre nomi della divinità di Israele, Yahweh, Elohim, sono stati tradotti in greco rispettivamente con Kyrios e Theos. Oggi prendiamo in esame l'altro nome della divinità di Israele, e cioè Adonai, tradotto in greco con despota, corrispondente in italiano con padrone, oppure signore. Questo termine nel Nuovo Testamento è riferito sia a Gesù che alla Trinità e si trova pochissime volte nel Nuovo Testamento. Il primo termine che prendiamo in esame lo troviamo nella bellissima preghiera che Simeone fa nel Vangelo di Luca quando prende in braccio Gesù nato da pochi giorni. Eccola. Ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola. Usando il termine Adonai, rivolgendosi a Yahweh, e non dimentichiamo che Simeone non aveva avuto la rivelazione neotestamentaria e pregava in ebraico, Simeone riconosce l'autorità della sua divinità chiamandolo padrone, perché il fatto che egli sarebbe morto dopo aver visto il Cristo era riconducibile ad una precisa volontà divina e a questa volontà egli si sottomette. Quante cose si imparano se si considerano tutte le sfumature della parola di Dio. Il secondo termine che prendiamo in esame lo troviamo nel libro degli Atti, nella preghiera che formulano i primi cristiani in occasione delle minacce che subirono da parte dei sacerdoti. Ecco che cosa leggiamo. All'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Considera le loro minacce. La preghiera degli apostoli e dei discepoli era indirizzata a Gesù Cristo quale creatore del cielo e della terra, come padrone del creato, della loro vita e delle circostanze che in quel caso erano negative. Il terzo termine che consideriamo lo troviamo nella lettera di Giuda al primo capitolo. Eccolo. Si sono infatti infiltrati tra di voi certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna, empi che mutano la grazia del nostro Dio in immoralità e rinnegano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Questa confessione di fede, che Gesù è l'unico padrone, ha portato i primi cristiani ad essere perseguitati e sbranati dai leoni. La nostra fede è tale da ritenere Gesù il nostro padrone? Qual è la massima autorità per noi? Un uomo o Gesù Cristo? Gesù disse: non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, colui che è nei cieli. Facciamo ora, cari ascoltatori, una sintesi di quello che abbiamo detto in queste ultime quattro trasmissioni in merito a Gesù, quale Kyrios. È vero che l'appellativo di Kyrios, cioè Signore, non è esclusivo di Gesù Cristo, perché esso fu dato anche ad alcuni imperatori e uomini potenti. Ma designando col titolo Kyrios Gesù, il figlio di Maria, i primi cristiani riconoscevano in lui Yahweh, quale unico e vero Dio dell'Antico Testamento, quale persona nella pluralità personale della divinità di Israele. Per i primi giudei cristiani Gesù era l'incarnazione della divinità di Israele. È in quest'ottica che si deve leggere il Nuovo Testamento, perché solo in quest'ottica è possibile comprendere gli scritti dei discepoli di Gesù. Quando leggiamo nella scrittura che Gesù è il figlio di Dio, non dobbiamo intendere che egli sia il figlio di Yahweh o il figlio di Geova, come sostengono i testimoni della torre di guardia, ma che Gesù Cristo è figlio della Deità relativamente a suo Padre e allo Spirito Santo. Questa verità è stata presa troppo poco sul serio e forse non è stata ben compresa. Quando Gesù si identifica con Yahweh, pur creando scandalo, si rifaceva con chiarezza ad una realtà preannunciata esplicitamente dalla Torah. Quindi, egli non si attribuiva solo un titolo, ma una identità viva ed operante fin dalla creazione. Gli apostoli e i primi cristiani non hanno attribuito a Gesù il titolo di Adonai, cioè Signore, soltanto nel senso legale del termine, ma per attestarne l'identificazione vera e propria con Yahweh delle antiche scritture. Perciò possiamo attestare senza ombra di dubbio che poiché Cristo è Yahweh, i credenti dell'Antico Testamento credevano in Cristo. Poiché i credenti dell'Antico Testamento credevano in Cristo, essi possono essere definiti dei cristiani. E poiché i credenti dell'Antico Testamento erano dei cristiani, allora il cristianesimo è iniziato dalla Genesi. Queste sono le inevitabili conclusioni di ciò che abbiamo detto dalla prima trasmissione. Per qualcuno potranno forse sembrare conclusioni ardite, ma non vi è pericolo di sbagliare, perché Gesù ha detto: poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Cari ascoltatori, le conclusioni alle quali siamo arrivati non sono uniche e né isolate. Anche alcuni padri della Chiesa avevano affermato la presenza di Cristo nell'Antico Testamento per legittimare il cristianesimo nel mondo greco-romano. Essi asserivano che il cristianesimo non fosse una religione giovane e nuova, essendo Mosè vissuto prima dei poeti e dei saggi della Grecia. Crisologo, vissuto nel V secolo, affermava l'unica identità tra quel Cristo che ha parlato Mosè dal monte e colui che si è incarnato nel seno della Vergine. Il vescovo Ravennate arriverà ad affermare che la fede cristiana sia anteriore allo stesso Cristo venuto nella carne da Maria Vergine. Non esiste quindi differenza sostanziale di fede tra gli antichi che credettero e attesero il Cristo a venire e i cristiani che credono nel Cristo venuto nella carne. Una sola è la fede, come unico è il piano di Dio nella storia manifestato dall'inizio. Se leggiamo la parola di Dio in quest'ottica, noteremo verità che ci sfuggono ad una lettura senza una visione completa. L'autore della lettera agli Ebrei non aveva dubbi che la fede fosse unica. Ascoltiamo. Perciò, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, abbiamo timore perché qualcuno di voi non ne resti escluso. Infatti, a noi come pure a loro è stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Noi, infatti, che abbiamo creduto, entriamo nel riposo come egli disse: così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. In qualche luogo, infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così: e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere. E ancora in questo passo: non entreranno nel mio riposo. poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi e per i primi, aventi ricevuto la buona notizia, non entrarono a causa della disubbidienza. Il Vangelo, la buona notizia, è dunque stato proclamato prima ai contemporanei di Mosè. Questo fatto spiega una sentenza che per me è sempre stata oscura. Ascoltiamola. Il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signor nostro Gesù Cristo. Quando Gesù tornerà, farà vendetta di due categorie di persone: chi non riconosce il Creatore e chi non accetta l'Evangelo. Poiché i credenti dell'Antico Testamento credevano in Yahweh e non conoscevano l'Evangelo degli Apostoli, a quale categoria di persone appartengono? Vi è forse una terza categoria? No, dato che Gesù Cristo è Yahweh Dio, il Creatore, e che il Vangelo di oggi è lo stesso dei credenti dell'Antico Testamento, inconsapevolmente hanno posto la loro fede in Cristo, seppure limitata alla rivelazione ricevuta. La parola di Dio afferma che l'uomo è salvato per fede, non dalla quantità di fede. Una sola è la fede, che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi, Gesù Cristo. Che tutti voi, cari ascoltatori, possiate avere quella fede che produce la vita eterna. Amen.